Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Bene, oggi parleremo di un argomento molto particolare, forse un argomento che per alcuni è in disuso, è l'aceto di vino. Perché parliamo di questo? Perché negli ultimi tempi ormai ovunque si trovano sempre balsamici di tutti i tipi, poi magari farò anche qualche considerazione su molti balsamici, certamente non sicuramente positiva. Bene, dicevo, quindi vediamo se il vecchio aceto di vino, quello che magari qualcuno erroneamente pensa che sia vino andato male, quello che altri invece ricordano la mamma, sempre la mamma, citano la mamma, che lo fanno a casa, lo facevano a casa. Ecco, andiamo a fare un viaggio sull'aceto di vino per scoprire un po' se ancora si produce in quantità, se si produce meno, se c'è ancora la passione per l'aceto di vino. Allora, numero verde 800 24 0024 per i nostri radioascoltatori che vogliono intervenire, messaggi SMS 349 238 6666. Iniziamo questo viaggio dal Colio, iniziamo questo viaggio da Cormons. Perché? Perché recentemente sono stato alla Subida, che è un noto ristorante appunto di Cormons, e il patrono Josko Sirke, che è con noi, mi ha così, ho chiesto io di visitare la sua acetaia, perché ne avevo sentito molto molto parlare, e acetaia di vino, ma anche aceto di uva. E allora, buongiorno Josko Sirke, la prima cosa che gli chiedo, Josko, qual è la differenza tra aceto di vino e aceto di uva? Buongiorno all'aceto, innanzitutto. dunque, io mi sono cimentato per molti anni nel tentativo di fare il miglior aceto dal miglior vino. Ho ottenuto dei buoni risultati, ma non mi hanno soddisfatto fino in fondo, probabilmente per due ragioni. Uno, perché il vino buono di oggi è un vino tecnologico, e pretendere che poi diventi aceto in maniera assolutamente spontanea forse un po' troppo. Due, perché cercavo nell'aceto che andavo a fare delle peculiarità che mi potessero supportare nel dimostrare a un pubblico la differenza che c'è fra un aceto qualunque e un aceto di grande qualità. Dal 2005, dopo una serie di esperimenti, ho cominciato a fare l'aceto partendo direttamente dall'uva, nel senso che in acetaia porto l'uva che viene solo diraspata, qui in 8-10 giorni avviene la fermentazione alcolica, a quel punto e con molta attenzione innesco l'aceto madre e inizia la fermentazione acetica in tutta la massa, cioè mantengo nella massa sia le bucce sia tutto, e mi permette questa procedura, che dura circa 10-11 mesi, di ottenere un aceto molto più corposo, con molta più mineralità, e che mi soddisfa e spero soddisfi anche il pubblico. Ecco, sentiamo già un radioascoltatore, Adriana, dalla provincia di Siracusa. Buongiorno Adriana. Sì, buongiorno, sono Adriana, telefono da Marzamemi. Bene, bellissimo posto, bellissimo posto. Oltre al mare abbiamo anche un buonissimo vino, qui si produce il Nero d'Avola. Io sono originaria di Catania, vengo qui in villeggiatura. E proprio per questo, perché insomma la tradizione era quella dell'aceto di vino, che ci siamo cimentati con mio marito nel produrcelo. E quindi con il vino, con il Nero d'Avola, avendo ereditato la mamma, abbiamo acquistato un'acetiera e quindi produciamo per noi, per nostro uso domestico, l'aceto, anche perché ritengo che da noi si utilizza molto il pesce azzurro e quindi il pesce marinato nell'aceto, da noi si utilizza anche la ricetta del pesce in carpione, è veramente una delizia rispetto a quello che la grande distribuzione o i vari ristoranti ci offrono, che è sempre un aceto industriale. Bene, grazie Adriana della sua testimonianza. Bene, torno a Josko Sirke, visto che è anche ristoratore, è un ristoratore anche importante, volevo chiederle, Josko, l'aceto di vino ha maggiori utilizzi, diciamo, nelle pietanze in questo momento? Cioè si usa molto di più dell'aceto balsamico? Assolutamente no, purtroppo è caduto in disuso. Colpa innanzitutto il fatto che negli ultimi anni la cultura enogastronomica non si è occupata di lui. E questo è un appello che faccio affinché si ritorni a parlarne, ma poi è poco presente in tavola, e se presente è presente in maniera banale. Da questo punto di vista io propongo di riproporre l'aceto di vino di qualità in tavola, magari mettendolo in uno spruzzino, e diamo la possibilità al singolo ospite del tavolo di giocarci un po', E se gli diamo un po' di informazioni, si accorgerà che, per esempio, dovunque c'è uovo, una spruzzata di aceto rinvigorisce il sapore dell'uovo e toglie alla pietanza quel limo, quel lispo di grasso che l'uovo ha in sé, e così si dica per tutte le pietanze che sono grasse, che può essere una minestra un po' più grassa, una trippa, un gulas, qualunque pesce grasso, dal pesce azzurro all'anguilla, ma anche la frutta rossa, che di solito alla quale aggiungiamo una goccia di limone con o assieme al limone o al posto del limone, l'aceto fa un ottimo effetto. Quindi secondo me bisogna tornare a conoscere questo ingrediente. Iosco, io non sono molto d'accordo sullo spruzzino, questo gliel'ho già detto. A me, cioè, il discorso dello spruzzino mi dà un po' l'idea di What's America, e così come anche l'olio d'oliva con lo spruzzino proprio mi fa cadere un po' la poesia, le dico la verità. Comunque, però è un modo per riavvicinarsi all'aceto. Va bene, grazie Iosco Sirchi, a presto. Sentiamo Alfredo da Venezia, un radioascoltatore. Buongiorno Alfredo. Buongiorno, io poi sono a Venezia per lavoro, ma sono originario di Carpi, una zona dove, diciamo, un po' di gente ha l'aceto in casa, noi ce lo facciamo in casa, il balsamico. Infatti io sono stato incuriosito dalla sua trasmissione, più che altro perché sposo interamente la tesi: piuttosto che un balsamico industriale, datemi un onesto aceto di vino. Bene. In qualsiasi ristorante. Grazie Alfredo, perché io volevo aggiungere una cosa su molti balsamici. Innanzitutto distinguiamo tradizionale, aceto balsamico tradizionale di Modena e di Reggio Emilia, dall'aceto balsamico. Trovo molti balsamici che trovo in giro a dei prezzi anche abbastanza rilevanti, in cui dentro c'è tanto di quel caramello da far paura, e non a caso che ho un SMS di Esther di Monza che dice: bentornato aceto di vino, basta con quelle brodaglie di caramellati spacciati per aceto balsamico tradizionale. Proprio per parlare di questo argomento, così il nostro Iosco Sirchi ha detto di riappropriarsi della cultura gastronomica di questo prodotto. Allora noi lo facciamo, perché ora andiamo in Romagna, andiamo a Gambettola, da Paolo Farabegoli, che produce dell'ottimo aceto con il metodo dei truccioli. E io proprio a Paolo Farabegoli voglio chiedere cos'è questo metodo. Farabegoli, buongiorno. Buongiorno a lei, maestro. Il metodo trucciolo non è altro che uno dei più vecchi metodi per ossigenare l'aceto. Non viene fatto altro che messe delle fascine di viti, di tralci di viti, in queste botti più o meno grandi, dove viene colato, in termini poveri, del vino. Questo vino comunque scende piano piano, goccia a goccia, in mezzo ai tralicci, e poi arriva sul fondo. Noi non abbiamo fatto altro che aggiungere una piccola pompa per far risalire il vino, e ritorna di nuovo dall'alto scendendo. Poi si sviluppano gli acetobatteri, che trasformano l'alcol etilico in acido acetico, e col passare dei giorni, tra l'ossidazione e il tipo del vino e tutto il resto, viene fuori comunque un aceto con dei profumi inebrianti per chi, come noi, ama l'aceto di vino rosso. Voi lo fate a Sangiovese, no? Con il vitigno del Sangiovese. Lo facciamo sia a Sangiovese con vitigni diversi, sì. Bene, grazie Farabegoli. Ecco, questa è una chicca di cultura in più dell'aceto prodotto con i truccioli. Grazie. Lui è titolare di Romani e Terre, l'azienda di Gambettola. Bene, ora vorrei andare da un altro maestro, un vero maestro, da Massimo Bottura, che ormai tutti conoscono, dell'Osteria della Francescana di Modena. Perché Massimo Bottura? Perché oltre a essere lo chef che tutti conoscono, è anche un produttore di aceto balsamico. E poi mi ha detto: guarda, che bisogna ricordare che il 26 c'è il Palio di Spilamberto. Però prima di farti ricordare questo, caro Massimo, voglio sapere tu cosa ne pensi dell'aceto di vino e non del balsamico tradizionale o del balsamico. Certo. Buongiorno a tutti, ciao Davide, ciao a tutti i gastronauti. L'aceto di vino è qualcosa di fondamentale, incredibile. Io in questo momento sto utilizzando quello di Gabrio, che è un aceto di Zipibbo quasi salato, con delle note di pantelleria, di erbe aromatiche che sono qualcosa di fuori dal mondo. E questa nota acida per me nei piatti è qualcosa di importantissimo, perché ti amplifica la percezione, te la allunga, ti apre la salivazione, ti fa percepire tutto come un mondo diverso, dà tridimensionalità al piatto. E questo è qualcosa che è fondamentale per quello che tutti i giorni noi facciamo. Poi è logico, io sono di Modena. Ecco, arriviamo al palio. Produco l'aceto balsamico e quest'anno per la prima volta entro dentro nel sono anch'io scrutato e quindi per me è una soddisfazione incredibile. Ma quest'anno tra l'altro nel palio di domani, quindi invito tutti a Spilamberto perché è anche una festa bellissima, ci sarà nel castello appunto la premiazione di una selezione di oltre 1400 piccoli campioni matracini che sono stati selezionati da oltre 60 degustatori, qualcosa di veramente straordinario. Ecco, allora io volevo, a questo punto volevo dire che qualcuno non pensasse che c'è la mia simpatia per l'aceto di vino. Io trovo straordinari l'aceto balsamico tradizionale, sia di Modena che di Reggio Emilia, anche per la serietà di moltissimi produttori. Quindi il discorso dell'aceto di vino è stato proprio quello di riportare alla luce così un prodotto, ma senza sminuire la qualità e l'eccezionalità di molti balsamici, che tra l'altro diciamo ormai sono rinomati in tutto il mondo ed è uno dei prodotti italiani più conosciuti nel mondo. Massimo, una cosa veloce, solo veloce, ti chiedo, dammi un piatto dove secondo te, senza descrivermi il piatto, ma un piatto dove l'aceto di vino, secondo te questo aceto di vino è fondamentale, quello di cui hai parlato, quello di Pantelleria. Io dico, guarda, io te lo faccio così, è un piatto che stiamo proprio servendo nel menù Sensazioni che tu conosci bene in questo momento, è una compressione di un cannolo alla siciliana in un raviolo, in guazzetto di aceto di vino, colatura di alici, acqua di pomodoro, mandorle, capperi, olive, lasciato tutto, cioè praticamente cosa faccio? Si chiama Io amo Corrado Assenza. Ah, bene. Il piatto si chiama Io amo Corrado Assenza. In realtà è proprio porto tutto quello che è l'esperienza del Caffè Sicilia, di questi prodotti pazzeschi, me lo porto con me in Emilia, gli do una forma di un raviolo e lo comprimo dentro un raviolo classico emiliano in un brodetto acido dove il piatto è appena toccato da una pasta di mandorle, quindi bene, si esplode in bocca tutto questo sapore e questa mediterraneità. Lo nominiamo piatto del 150 anni dell'Italia perché ha unito l'Italia, la Sicilia e l'Emilia. Grazie Massimo e a presto. Ciao a tutti, ciao. Grazie. A tutti. Bene, ciao. Continuiamo il nostro viaggio. Radioascoltatore Renzo da Roma, buongiorno Renzo. Buongiorno a lei. Io, il mio più piccolo intervento riguarda tutti gli aceti che vengono venduti in sì. bottiglia. Sì. Io li ritengo tutti di pessimo gusto. Ma lei parla di vino, parla di balsamici, parla di tradizionali? Parlo di aceto di vino. Sì. Di aceto di vino. Perfetto. Siccome sono un mangiatore di insalata e sì. per me l'aceto è destinato all'insalata, sì. io non riesco a trovare una bottiglia con un discreto aceto. Tant'è che sono costretto a fare ogni tanto un viaggetto ai Castelli Romani dove vado a cercare qualche piccolo produttore di vino che abusivamente vende l'aceto perché mi dicono che gli è proibito. Ho capito. Bene, ecco, guardi, questo è il mio intervento. Bene, allora guardi, abbiamo con noi un maestro acetaio della cooperativa Ramo d'Oro di Castelnuovo Don Bosco e chiediamo a lui cosa ne pensa di questo intervento. Merlino, lei cosa ne pensa di questo intervento? Pronto? Sì, pronto. Ha sentito l'intervento di Renzo da Roma? Sì, lo sento molto lontano. Bene, allora le volevo chiedere, ha detto che tutti gli aceti di vino che si trovano in vendita, secondo lui, sono pessimi e lui deve ricorrere ad aceti clandestini, perché solo così sono buoni. Lei cosa ne pensa? No, non è che non siano cattivi gli aceti comunque che vengono prodotti in Italia. Non sono di altissima qualità, perché comunque la legislazione italiana parla molto chiaro ed è molto severa per quanto riguarda gli aceti anche industriali. Ciò vuol dire che sono fatti da vino in Italia. È logico che fatta con un sistema industriale non saranno di qualità come può essere fatto da un qualsiasi contadino o comunque da vini di altissima qualità. Ecco, ma lui parlava addirittura di profumo, di sapore. Sì, perché comunque in fase industriale si perdono tutte le qualità dei vini di partenza. Calcoliamo sempre che quando si lavora in piccole quantità si lavora sempre con temperature, con cantine molto pulite, con barrique di legno, comunque legni pregiati e piccolissime quantità. In questo modo possiamo mantenere tutti gli aromi dei vitigni madre. Ecco, poi, prego, prego. No, che poi sia fatto, che sia fatto da vini siciliani o vini piemontesi o lombardi, veneti, non cambia niente, si parte sempre comunque da un vino di altissima qualità. Il grande errore è quello di prendere una bottiglia quando sa di tappo, quando ha dei fondi, e farsi l'aceto in casa mettendo questi vini che sono malsani. Bisogna sempre utilizzare vini di altissima qualità per avere anche un aceto in casa fatto bene. Ecco, perché molta gente ha la convinzione che l'aceto derivi da vino andato male. Questo è, secondo me, il grande limite di moltissime persone. Non è così, sì, Merlino? Infatti, questa è la grande ignoranza della gente, che non c'ha più informazione. Sino al 700 i vini erano pulitissimi. C'era gente che viaggiava per le strade a vendere gli aceti. E c'era il carretto con l'acetaio che vendeva gli aceti, ma erano tutti aceti non malsani, aceti fatti da vini di grandi vini. Quindi, come dice Josko Sirk, il problema è che ormai sono vini tecnologici, e questo è il punto. Sì, esatto. Con questo non vuol dire che comunque siano vino cattivi, che siano aceti cattivi. Anzi, sono, come dicevo prima, sono aceti comunque di qualità, di pregio, fatti logicamente con tecniche molto veloci. Bene, grazie a Sergio Merlino, mastro acetaio della cooperativa Ramo d'Oro. Sentiamo Alessandro da Pescara, radioascoltatore. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Senta, io le volevo dire questo. Io circa 30 anni fa sono stato invitato in una riserva di caccia nei pressi di Castelvetro, Modena. Sì. E ho avuto l'occasione, in quell'occasione, di visitare una vera acetaia di aceto balsamico. Ricordo che allora chi illustrò il procedimento e quant'altro parlava già di, allora parlo di 30 anni fa, di cifre folli, tant'è vero che io, per togliermi uno sfizio, grazie a Dio me lo potevo e me lo posso permettere, ne presi una bottiglietta grossa come un decilitro, sì, o forse poco più, e la pagai 40.000 lire, parlo di 30 anni fa. Adesso quando vedono i supermercati questa, scusi termine, queste denominazioni, mi viene da ridere. Io da allora l'aceto me lo faccio io in, in botticelle di rovere, con una madre che oramai ha più di 20 anni, uso del vino bianco o rosso a secondo delle qualità, di primissimo pregio, per cui l'aceto che faccio io è per bene, me eccezionale. Bene Alessandro, grazie della sua testimonianza. Sentiamo Luciano dalla provincia di Imperia. Buongiorno Luciano. Buongiorno Paolini, piacere parlare con lei. Senta, a me è successo una cosa stranissima, no? Non strana, diciamo, abbastanza normale. E circa 35 anni fa io avevo un amico che era su di Canelli, quei posti là, no? E siamo andati lì nella zona del Barbaresco e avevo preso due damigiane di Barbaresco, che l'avevo pagata anche un mucchio di soldi. Una l'ho imbottigliata e l'altra praticamente, siccome non avevo tempo, a quei tempi lavoravo, diciamo, avevo i bambini piccoli, questa roba qua. Andiamo al dunque. E dunque che questo qua è diventato un aceto che era la fine del mondo. Quando lei metteva un po' di aceto sull'insalata aveva un aroma che era fantastico. Bene, lei ha speso poco, lei è andata bene, ben per lei, cosa le devo dire? Meno così. Sentiamo Giorgio da Modena, buongiorno Giorgio. Buongiorno Davide, volevo sottolineare una questione per gli aceti industriali. Sì. Gli aceti industriali hanno un sapore poco gradevole perché spesso viene utilizzato un disinfettante industriale che ne altera il sapore e quindi spesso il problema nasce da lì. Ho capito. E poi per quanto riguarda il balsamico, io sono di Modena quindi sono molto amante di questo prodotto. Il problema del balsamico al giorno d'oggi è una bassa acidità e un po', diciamo, uno sbilanciamento verso la parte dolce, forse anche perché sì, i prodotti da cui si parte sono un po' troppo concentrati. Prima ho sentito Bottura che parlava della consorteria di Modena, di Spilamberto, e suggerisco a tutti i produttori di rivolgersi a loro perché hanno un'ottima guida per sono d'accordo con lei. Sono d'accordo con lei perché il palio è molto importante, quindi anche i giudizi finali sono importantissimi e poi è una cosa molto ma molto sentita ed è giusto che il territorio la senta in questa maniera. Parliamo di un aspetto molto particolare, degli effetti positivi, benefici dell'aceto di vino. E chi lo sostiene? Lo sostiene un cuoco alchimista molto noto a Milano, e Arturo Maggi della Latteria di San Marco, che sta per pubblicare un libro dove ci sarà appunto spiegato molto di tutto questo. Buongiorno Arturo. Buongiorno dottor Paolini. Allora, mi racconti un po', ma secondo lei l'aceto di vino è veramente benefico? Molto benefico. Quelli che hanno parlato fino adesso mi hanno soddisfatto molto. Bene. Adesso io gli faccio il mio elenco. Sì. L'utilità che si ottiene dall'aceto. Gli elenco un po' di roba. Mi dica. Allora, l'aceto va benissimo anche per l'intestino. Io l'aceto lo adopero anche per alimentare le piante del mio orto e tiene distanti i parassiti al posto dei veleni, adopero l'aceto. E tiene distanti anche i cinghiali, chi avesse dei problemi. In cucina io lo adopero, non il vino bianco, negli arrosti, negli spezzatini, adopero l'aceto, mi toglie i grassi, mi toglie i sapori un po' forti, mi fa diventare tutto un po' più dolce, più digeribile. Allora, io cucino in argento, lo sa? Sì, certo. Che è un minerale equivalente all'aceto, sono gemelli. Nel minerale è l'argento, l'aceto, e nel vegetale è l'argento, è il vino, diciamo, l'aceto di vino. Tutti e due tolgono le acidità, i vetrioli ai prodotti alimentari. Se un seme mi cade nel terreno per nascere, deve passare dall'aceto, dalla fermentazione, altrimenti non nasce. Perché ha parlato di aceto e fermentazione? Sì, sì, l'aceto è la fermentazione che noi conosciamo, però tutta la vita è basata sull'aceto, sulla fermentazione. Noi conosciamo l'aceto direttamente, però tutto passa dall'aceto. Il frigorifero si lava con l'aceto per togliere brutti odori, giusto? Sì, certo. Però mi conserva anche i prodotti, le utilità, io sto parlando. Certo. Poi il problema è delle dosi. Il lievito madre del pane, che ha tutti gli effetti benefici che ha, che nessuno lo considera più, passa dall'aceto. Ogni elemento fa il suo aceto. Il letame nel terreno, per essere utile, valido, biologico, deve fermentare e passa dall'aceto. Poi arriviamo all'ultimo, la madre. La natura non può fare il massimo che la natura può fare di puro, è la madre dell'aceto, è la cosa più pura che la natura può creare. Con la madre dell'aceto lei può guarire 100 cose. Io quando vado in ferie mi porto sempre la bottiglietta dell'aceto, problemi di intestino, prendo una botta in una gamba, mi passo l'aceto, faccio un taglietto, metto l'aceto. Ecco, questo è il mio concetto dell'aceto. Beato lei che è aceto dipendente, non di altro. Grazie Arturo, lei ci ha dato questo aspetto completamente diverso che credo e penso farà discutere i nostri radioascoltatori. Numero verde 800 24 00 24. Grazie e buon lavoro. Fatto conoscere questo aspetto. Bene, grazie. Grazie a lei. A presto. Sentiamo Luciano dalla provincia di Bologna, un radioascoltatore. Sì, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione, anch'io volevo testare un'arancia per l'aceto di vino, una contro l'aceto balsamico, anch'io sono un amante dell'insalata e me la sporca, quindi non mi piace mangiarmi l'insalata nera e ho sempre usato l'uso dell'aceto di vino. Io ho fatto con mia suocera, che anche lei ha una madre dell'aceto da molti anni e che rinnova sempre con vino di ottima qualità. Bene, grazie a Luciano. Sentiamo Marisa da Modena. Buongiorno Marisa. Buongiorno a tutti. Volevo dirvi che io sono da Modena, abito a Modena, ma sono nativa di Spilamberto e per anni e anni, nonostante fossimo poverissimo, tutte le famiglie di Modena avevano uno, due, tre barilletti di aceto balsamico fatto in casa. Volevo anche dire che a Spilamberto in questi giorni si svolge una gara fra migliaia. Signora, di l'abbiamo già detto tutori. Più volte, l'abbiamo già detto più volte, il 26 il Spilamberto, il Paglio, che è estremamente importante. Grazie Marisa, sentiamo Giovanni dalla provincia di Pordenone. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Paolini, io sono quello che ti ha scritto sui sardoni l'altro giorno. Ah, bene. Sì, senti una cosa, allora io mi produco l'aceto con la madre che era ancora di mio nonno, io ho superato i 60 anni, pensa quanti anni ha. Bene, viene... E secondo me va prodotto col vino fatto fresco, io produco il vino con l'Isabella che è una varietà di fragola, di uva fragola, e con quest'anno l'ho fatto anche col Noac che è un bianco del Friuli. Io ho un sacco di amici che vengono a prendere l'aceto in casa mia, ovviamente gratis. E una cosa da aggiungere a quello che ha detto il cuoco prima. Sì. Io ho un amico che è celiaco e può usare l'aceto prodotto così, perché sembrerebbe che molti aceti commerciali utilizzino la pasta o qualcosa di simile per poter far fermentare. Bene, questa è una responsabilità che do a lei di questa, di questa cosa. Detto quello bene, a cui do bene, questa roba. Bene, grazie a Lucia, grazie a Giovanni. Bene, allora ora abbiamo con noi una produttrice di aceto, anzi di aceti, e questo è un fatto interessante perché produce sia aceti balsamico tradizionale che aceto balsamico che aceto di vino. Buongiorno a Elda Mengazzoli. Buongiorno Paolo e buongiorno ai radioascoltatori. Bene, volevo, tutti sbagliano Paolo con Paolini, invece il mio nome è Davide, comunque va bene. Davide, scusi. Volevo solo chiederle, questo, lei che produce appunto più linee, volevo chiedere, l'aceto di vino ha avuto un ritorno, ha un ritorno oppure è poco così, poco diffuso e poco acquistato? Allora, l'aceto di vino sicuramente con l'ingresso sul mercato degli aceti balsamici ha sofferto un po' per quello che riguarda il consumo. Sta però per fortuna ritornando e questo devo dire grazie anche al ritorno e al riutilizzo dei vecchi sistemi di lavorazione, sistemi artigianali. Prima ho sentito parlare della fermentazione a trucciolo, della fermentazione che viene fatta a casa che si chiama fermentazione statica, e devo dire che questi due sistemi sono ritornati in uso e consentono appunto di poter immettere sul mercato degli aceti diversi, degli aceti che a differenza di quelli industriali hanno caratteristiche organolettiche che richiamano i vini di partenza. Quindi insomma si vede all'orizzonte un ritorno, quasi che si ritorni un po' alle tradizioni. Certo che io credo che anche in questi anni comunque moltissimi abbiano continuato a fare l'aceto a casa, si siano fatti l'aceto a casa, più o meno buono, ma comunque diciamo che questa tendenza secondo me è rimasta molto. Rimanga con noi Elda, sentiamo Giovanni da Savona. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a lei signor Davide. Mi dica. Io volevo chiedere. Io mi faccio l'aceto dal 74 e continuo sempre con lo stesso aceto aggiungendo vino nuovo, no? Volevo sapere cosa la madre, devo buttarla via, la devo tenere, cioè ho sentito dei pareri discorsi. Sentiamo, e guardi. Io uso di vini pregiati tipo i Baroli, sì, o così simili, ma molto molto molto vecchi. Danno un sapore oppure non hanno, sì, più nessun valore? Guardi, sentiamo Elda Mengazzoli che abbiamo in linea, quindi un'esperta, e sentiamo cosa risponde. Allora, per quanto riguarda la madre che viene, si chiama così la madre, ma in realtà sono gli acetobacter che si uniscono insieme e sono praticamente gli agenti della trasformazione dell'alcol etilico presente nel vino in acido acetico. Voglio fare solo una piccola precisazione: noi quando parliamo di aceto parliamo sempre di fermentazione, però il termine corretto sarebbe ossidazione. Bene. Perché i batteri acetici lavorano in presenza di ossigeno. La madre è il capitale, nel senso che è l'agente di trasformazione. Bisogna però, quando si fa in casa l'aceto, avere alcuni accorgimenti, cioè periodicamente prelevare questa madre, spezzettarla, anche perché i batteri che lavorano sono quelli esterni, quindi di solito si formano delle masse che sembrano gelatinose, bisognerebbe spezzarla, pulirla, lavandola quindi con del vino, mi raccomando con del vino, e poi rimetterla nella damigiana o nella botticella. Questo è il sistema più adeguato per conservare, per avere sempre un prodotto buono, perché in questa maniera i batteri batteri acetici lavorano correttamente. Bene, grazie a Elda Mengazzoli dell'acetificio Mengazzoli di Levata di Curtatone. Spero che il mio ospite Mario Poyer, che è un famoso produttore di vino, non la prenda male. Mario, ma molti produttori fanno aceto con il vino che magari non è venuto bene? Una battuta un po'... A dire la verità, quando mi sono messo a fare aceto i miei colleghi mi hanno preso un po' in giro. Adesso Mario non riesce più a far vini buoni e fa aceto direttamente. Immaginavo. Non è proprio così. In realtà, se vuoi fare un buon prodotto devi partire da materia prima eccellente. E questo vale per tutto, per fare una buona grappa, per fare un buon vino, per fare un buon piatto, visto che c'era bottura prima. Se lui parte da materia prima poco valida, io penso che i suoi piatti non diventano famosi a livello mondiale. Ecco, ma il tuo aceto lo fai dai tuoi vini, dai tuoi vitigni ovviamente, dal tuo vino praticamente. Proprio così, in realtà è una piccolissima produzione, e mettiamo da parte un po' di vini, sono di solito delle cuvée, sono diverse varietà, e andiamo a fare un aceto di vino bianco e un aceto di vino rosso. Prima si parlava di Pantelleria e lì c'è un territorio, noi siamo nelle Dolomiti e cerchiamo di trasmettere le montagne, la mineralità dei nostri bianchi aromatici, il Müller Thurgau, il Riesling e queste cose qua. Per cui territorio trasformato prima in vino e poi in aceto. Beh, sto pensando che un tempo in Chianti, nel Chianti c'erano molti produttori di vino che producevano l'agretto, e quindi diciamo che ora piano piano l'ho visto abbastanza scomparire. Penso magari ritornerà, chissà, se il mercato richiama ancora aceto di vino, probabilmente è così. Rimani con noi, Mario. Sentiamo Nicola da Roma. Buongiorno Nicola. Buongiorno dottor Paolini, innanzitutto le faccio i complimenti per la trasmissione. Allora, io ho 35 anni, stavo ascoltando la sua trasmissione e mi è venuto un pensiero. Ho sentito un po' di persone con qualche anno in più dei miei che fanno l'aceto in casa. Ora io mi sono appassionato, l'unica cosa, vorrei fare l'aceto in casa, però non ho ancora capito che cosa bisogna comprare anche come strumenti e come si fa, cioè dall'inizio alla fine, per uno giovane che vuole approcciare a questo mondo magari può essere utile. Beh, sa, raccontare tutto è un po' lunga, ora vedremo magari con qualche nostro ospite di cominciare così dagli aspetti base. Abbiamo Oscar Giaccone in linea con noi. Oscar Giaccone è figlio di Cesare Giaccone, noto chef di Albaretto Torre, che è stato uno dei primi anni fa a cominciare a produrre un grande aceto di vino di qualità con i vitigni della sua terra, e vi posso garantire che ho visto il vino che usa, i produttori che gli danno il vino, quindi di grandissima qualità. Buongiorno Oscar. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Allora, hai preso in mano l'azienda di... Sono contento perché anch'io ho 35 anni come il... Ho capito, ma senti, ma questo signore ci stava chiedendo un po' tutto, è un po' difficile, abbiamo pochi minuti, ma secondo te per fare l'aceto in casa, ecco, molti vogliono fare l'aceto in casa. Innanzitutto bisognerebbe avere un ceppo di madri di quelle tramandate da famiglia in famiglia, quella è la base. Poi logicamente acquistare vini di altissima qualità, non utilizzare vini alterati, avere una botticella e iniziare a vedere questa lavorazione, questa meraviglia della natura che è poi la trasformazione poi del vino in aceto, sì. Ecco, voi continuate a fare Barolo, Moscato e Barbera e Nebbiolo, quindi ormai è una vita che fate questo. Ecco, volevo chiederti, negli ultimi anni hai visto crescere la domanda di mercato sull'aceto di vino? Noi abbiamo una piccolissima produzione, però devo dire che siamo molto contenti perché lo vendiamo un po' a tutti questi grandi colleghi e non, questi bellissimi negozi, questi anche direttamente alle persone, ed è bellissimo il mondo che si sta creando intorno alla città di Vina, sì. Quindi sei contento insomma di aver lasciato la cucina per passare a produrre aceti? Diciamo che la cucina mi aiuta ancora a rendermi conto dell'importanza di questo prodotto, perché è lì il tutto, il segreto, di voler arrivare comunque a materie prime, che può essere un aceto, come un olio, come un sale, per arrivare poi al risultato in cucina, sì. Bene, vi ricordo Oscar Giaccone, Albaretto della Torre, col grande papà Cesare. Bene, sentiamo Luciano da Cesena, radioascoltatore. Buongiorno Luciano. Buongiorno a lei, complimenti per la trasmissione, perché finora si parla sempre di vino, ma di aceto, a mio avviso, deve essere molto più rivalutato, perché l'aceto dà un gusto, se è fatto veramente buono, dà un gusto un po' a tutti i piatti in generale. Allora, io volevo raccontare un fatto un po' particolare. Di aceto ne ho sentiti tanti, ma di gusti particolari che mi andassero a soddisfare pochi. E mi è capitato nel 77 che avevo preso una damigiana di vino da dei contadini e l'avevo lasciato su un terrazzo. Era all'inizio dell'estate, dopo una decina di giorni aveva preso un po' così, un po' di aceto e l'ho messo in cantina. Da allora, poi facendo anche un trasloco da un'abitazione all'altra, mi si spaccò la damigiana e un vicino mi disse no, non buttare via niente. Mi disse di prendere sulla madre, anzi una parte l'ha presa anche lui. E comunque da allora ho un aceto che è favoloso, è migliore del balsamico. Bene. Non ha eguali e io dico veramente l'aceto quando è buono serve a qualsiasi piatto. Contento lei? Bene, sei contento, meglio per lei. Mario, volevo chiederti un'ultima cosa. Secondo te è scontato che da un grande vino venga fuori un grande aceto? Ma come tutte le cose la natura va seguita, per cui anche per fare un grande aceto ci vuole attenzione, ci vuole tempo, soprattutto tempo, ma anche un po' di conoscenza. Ad esempio prima si parlava della madre. La madre quando diventa gelatinosa tipo il fegato va buttata. Quelli sono dei batteri xilini che trasformano l'acido acetico in cellulose, per cui in quel caso la madre si butta. L'aceto buono crea un velo in superficie che è finissimo, sembra come una fioretta di un vino flor tipo Sherry, e questo va ripreso e questo va utilizzato. Attenzione a questa massa gelatinosa che sono dei batteri xilogeni, creano cellulosa dall'aceto. Forse un po' troppo complicato, ma usate la madre, intesa come liquido di aceto, buono magari di qualche amico. Grazie a Mario. Io mi scuso con Roberto dalla provincia di Bergamo e Daniele dalla provincia di Padova perché non ho più tempo, devo chiudere questa bella trasmissione perché è stata molto interessante e devo dire ora non esageriamo, ho avuto degli sms che parlano che addirittura i legionari romani diventavano più forti con l'aceto negli scontri, altri addirittura che risana e può curare anche il tumore. Bene, queste sono esagerazioni che sicuramente vanno evitate perché assolutamente così è abbastanza impensabile, magari fosse così, mi viene da dire. Bene, allora io vi do appuntamento domani con il riposo del guerriero alle 11.15 ogni giorno con la pillola del gastronauta. Ringrazio Pietro Lacorte in regia, in redazione Anita Panizza e vi auguro a tutti una buona settimana.